95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Konumuz malum, hayvanlar, can dostlarımız. O yüzden ben de değişik bir program hayal ettim. Ve bugün İtabella'ya 1951'den günümüze San Remo'ya katılmış, içinden patili, kanatlı, böcek, dört nala koşan ya da zıp zıp zıplayan kurbağaları anlatan hayvan dostlarımız geçen şarkıları dinleyeceğiz. 1951 yılından beri düzenlenen bu festival biliyorsunuz ki İtalya'nın en önemli, en prestijli müzik festivallerinden biri. Kaldı ki İtalyanlar için Eurovision'dan daha da büyük bir öneme sahip. Ve bu ilk yılından beri, yani 1951'den beri her zaman hayvanlar Ariston sahnesinde fiziksel olarak olmasa da tema olarak kendilerine yer bulmuşlar. Şimdi bunlardan ilk yıldan biriyle başlayalım. 1951 yılında yarışmada Duo Fasano'nun La Cigogna Distratta, Dalgın Leylek şarkısında geçen bir leyleği dinleyelim önce. Bu leylek podyumu kazanamıyor ama ertesi yıl Nila Pizzi, Vola Colomba'yla, Uç Güvercin'le ve yine aynı yıl katıldığı Gelincikler ve Ördekler şarkılarıyla hem birinci hem de ikinci sırayı elde ediyor. Şimdi önce 1940'lı ve 50'li yılların popüler ikilisi Dina Fasano ve Delfina Fasano kardeşlerden La Cigogna Distratta, arkasından da Nila Pizzi'den Papa Veri e Papere'ye kulak veriyoruz. Baciata già dalla luna, e sulla collinetta di fronte una villetta si imbruna. Nella casetta vi son due nonni e nella villa sposi in amor. Ma la cicogna che porta i bambini volando commette un errore. Lassù, lassù, sopra il camino posata è la cicogna. Ha nella bocca un fantolin, ma è rossa di vergogna. Per ben tre volte si sbagliò e il bimbo li portò. Un bel piccino dai riccioli d'oro per quei sposini d'amore. Ma la cicogna di stranda che fa ai due vecchietti lo porta già. Mentre sta la sposina in attesa, ride una stella dal cielo e mostra la cicogna sorpresa dove diretto il suo volo. Ora la villa è un raggio di sole e la cicogna vola lassù e dal camino pianino pianino quel bimbo fa scendere giù. Lassù, lassù, sopra il camino posata è la cicogna, ha nella bocca un vestitin e non ha più vergogna. Per ben tre volte si sbagliò, ma questa volta no. Il bel piccino dai riccioli d'oro hanno gli sposi in amore. Or la cicogna beata sta là, guarda, sorride, poi se ne va. Il bel piccino dai riccioli d'oro hanno gli sposi in amor. Or la cicogna beata sarà quando sorride poi se ne va. Guarda, sorride, poi se ne va. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

ho. Passerotto ve le trole blu dinledik Carla Boni'den. 1961 yılında Joe Santieri yarışmaya Yusufçukların uçuşunu, hafifliğini ve güzelliğini betimleyen parçasıyla katıldı. Bu parçada Yusufçuklar doğanın ince ve narin yaratıkları olarak tasvir edilirken, onların uçuşu, hayatın geçiciliğini ve anın tadını çıkarmak gerekliliğini de bize hatırlatıyordu. 1962 yılına geldiğimizde ise 1928 Milano doğumlu aktör, komedyen ve şarkıcı Gino Bramieri'nin Lui Andava a Cavallo adlı şarkısı mizahi bir dille at binmeyi seven bir adamın hikayesini anlatarak katıldı yarışmaya. Şimdi önce Joe Santieri'den Libelulle, arkasından da Gino Bramieri'den Lui Andava a Cavallo Açık Radyo'da. Volano, volano, volano, volano. Volano, volano, volano, volano. Volano, leggere volano, allegre volano, lassù tremano, nell'aria immobile, son fiori blu, plin, plum, nel cielo, libellule, i sogni miei sono le libellule, che nei tuoi occhi si rispecchiano, per me, per me, per me, per me, libellule. Tra fiore e fiore si confondono e dolcemente mi accarezzano. Per te, per te, per te, per te. E guardale, non son girandole, due qua, due là, di qua, di là. Non vedi che per noi nel cielo scrivono felicità, felicità. Libellule, i baci tuoi sono le libellule che sulle labbra mi sussurrano amor, non prendere libellule in trappola, che volano, volano, volano, volano, volano, volano, volano, volano, volano da te. Oh, guardale, non son girandole, due qua, due là, di qua, di là. Non vedi che per noi nel cielo scrivono felicità con l'accento sulla A. Libellule, i baci tuoi sono le libellule che sulle labbra mi sussurrano amor. No. Bella. Sognavo una bellissima automobile per conquistare la sua vezzosa bambola, ma avendo solamente pochi spiccioli, un bel cavallo bianco si comprò. Lui andava spavalzo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva, che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuor. Lui andava spavaldo a cavallo, se pioveva portava l'ombrello. Per amor d'una bionda fanciulla andava a cavallo per tutta la città. Tutti lo invidiavano, tutti gli dicevano, ormai sei a cavallo, per te la vita è bella, continua a cavalcar. Lui andava spavalzo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva, che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. A cavallo se ne andava dal dolce amor. Nina, bella, che bella. Un giorno disse Popper, bacco nebica, e mani e piedi gli si congelarono. Col suo cavallo in piazza Forlimpopoli un bianco monumento diventò. Lui andava spavaldo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva, che bello, quell'uomo a cavallo, è l'uomo del mio cuore. E lui andava spavaldo a cavallo, se pioveva portava l'ombrello. Per amor d'una bionda fanciulla andava a cavallo per tutta la città. Tutti lo invidiavano, tutti gli dicevano sì sì, ormai sei a cavallo, per te la vita è bella, continua a cavalcare. Lui andava spavaldo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva, che bello, quell'uomo a cavallo, è l'uomo del mio cuore. A cavallo se ne andava dal dolce amor. Bella Nina, che bella, Nina, Nina, va piano Nina, Nina, piano, Nina, attento al tram, Nina, Nina! Lo sapevo. Libellule ve lui andava a cavallo dinledik. Geldik 1968 yılına. 1968 Sanremo Müzik Festivali'nde Johnny Dorelli ve Polanka tarafından seslendirilen parçanın sözleri Mogol'a, müziği ise Lucio Battisti'ye aitti. Johnny Dorelli'nin seslendirdiği bu parça Çılgın Kelebek, kaygı ve kargaşa içinde olan bir kelebekten bahsediyordu. Kelebeğin çılgınca uçuşu, kişinin iç dünyasında yaşadığı karışıklık ve belirsizlikleri de anlatıyordu bize. Iva Zanicchi için yaptığımız programda dinlediğimiz parçayı 1970 yılında Sanremo'ya birlikte katıldıkları Sergio Endrigo'dan dinleyeceğiz şimdi. Bu parçada 1970'te Sanremo Eleştirmenler Ödülünü de kazanmıştı. Parça Nuh'un gemisini ve içindeki hayvanları anlatırken doğal denge bozuldu, görünüşe göre geri dönüşü olmayan ciddi bir hale doğru gidiyoruz diyordu. Şimdi önce La Farfarla Impazzita, arkasından da L'Arca di Noè radyonuzda. Guardo gli occhi tuoi, ci siamo solo noi. Un sorriso e poi non so più dove sei. No, no, oh, vola la farfalla impazzita, era quasi fra le mie dita, vola nell'immensità, si allontana dove andrà, chi lo sa, nel cielo vola la farfalla impazzita, sfiora sorridendo la vita, io lo so ritornerà, perché lei cerca sempre il sole, cerca sempre il sole, lei cerca sempre il sole e ci sarà negli occhi miei. Nel silenzio lo so, ascolti la mia voce, ma se ti parlo tu non mi senti più. No, no, oh, farfalla impazzita, sfiora sorridendo la vita, io lo so ritornerà, perché lei cerca sempre il sole, cerca sempre il sole, lei cerca sempre il sole e ci sarà negli occhi miei. Eccola che si è posata, io vedo le sue ali colorate, è ferma, è molto vicina, allungo la mano, la prendo, questa volta non fugge più, non fugge più,

può dormire, non si può. Ogni notte a mezzanotte scarafaggi me li sento camminare tra le dita. Mi viene voglia di pestarli, ma poi no, sono buono con gli amici miei. Ogni notte a mezzanotte scarafaggi sono simpatici, mi fanno compagnia. Ce n'è uno che ogni tanto salta su, mi domanda allora come va. Si può. Ogni notte a mezzanotte nel silenzio, tra le mura si confondono i sospiri. Mi viene voglia di rispondere, ma no, questa volta non risponderò. Ogni notte penso a lei, sono un uomo, voi capite, sono un uomo. Poi rivedo qui davanti agli occhi miei quel ragazzo che piaceva a lei. Lo vedo entrare in casa mia, lui spenge la TV, lei prende una bottiglia e due bicchieri. Gatto nel Blu ve Scarafaggi dinledik. 1981 yılına geldiğimizde Paolo Barabani Hop Hop Küçük Eşek adlı şarkıyla İsa'nın Kudüs'e gitmek için bindiği eşeği anlatıyordu. Ama bir yandan da Peter'in inkarını ve Yahuda'nın ihaneti gibi mevzulara da değiniyordu. Barabani bu şarkıyla ancak 10. olabilmişti. 1985 yılında ise genellikle sosyal ve politik konuları ele alan şarkılar yapan İtalyan rock müziğinin önemli gruplarından biri olan Neutrals, Fabrizio De André ve Roberto Ferri'nin sözlerini yazdığı toplumsal ve politik sorunları hicveden Faccia di Cane, yani köpek suratlı isimli parçayla eleştirmenler ödülünü kazanmıştı. Şimdi önce Hop Hop Samarello, arkasından da Faccia di Cane Itabella'da. Thank you.

Hop Hop Somarello ve Faccia di Cane dinledik. Sırada 1996 yılında kurulan rock, jazz, klasik ve elektronik müziği harmanlayarak deneysel bir sound oluşturan çok kıymetli bir grup var. Quinto Rigo. Bu grup 1999 yılında San Roma'ya katılıyor ve yüzeysel eğlence dünyasında yeniden kurbağa olmak için her şeyi yapmaya hazır yakışıklı bir prensin hikayesini tersten anlatıyor. Programın San Roma parçalarını da bu parçayla kapatalım. Ama bu son parça değil. Quinto Rigo'dan Rospo, Kurbağa, şimdi radyonuzda. Solo un momento, un po' di tempo per me, nel mio mondo è nato te, il tuo solo io. Mi disgusta! Sono contento di essere infelice. Sapessi fare, ma non credere. Io non so fingere. Io non so fingere. Rigo'dan Rospo'yu dinledik. Bugün İtabella'da San Roma'ya katılmış, içinde hayvanları anlatan, hayvanların geçtiği şarkılar vardı. Şimdi sırada dinleyeceğimiz parça Paolo Belli'nin Marcos Banda ile birlikte seslendirdiği ve insanın en iyi arkadaşına adadığı, San Roma'da yarışmayan ama İtalyan Hayvan Hakları Koruma Derneği kampanyasına destek vermek amacıyla hazırlanmış bir parça. Bu kampanya hayvanların terk edilmesini önlemek ve sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm aramak üzere odaklanıyor mevzuya. Yani öldürmek değil çözüm. Çözüm terk etmemek. Terk etmezsen o hayvanlar sokakta yaşamak zorunda kalmıyorlar zaten. Çünkü ortalık cins kediler, cins köpeklerle dolu. Velhasılı kelam efendim, ben Cansın Sayesen, İtabella'daydınız. Vicdan, merhamet ve adalet dileyerek una piccola bestia di razza di cane ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Una piccola bestia di razza di cane, con i denti davanti mangiati, mangiati dalla fame. Mi bussava alla porta quando sentiva odore di pane. Quella piccola bestia di razza di cane. Mi diceva che il mondo è fatto di strade, che a volere percorrerle tutte ci si può fare male, che la strada più bella è sempre la strada di casa, e che l'uomo è una bestia e a volte anche una bestia fidata. Giocare. Ma sono sicuro che sei di ritorno da qualche strada lunga perduta qua intorno. Attento alle macchine che vanno veloci, al cielo la sera, all'acqua e agli incroci. Ma il suo cuore di cane non ha proprio capito il motivo per cui una mattina quell'uomo l'ha rapito, e costretto strozzandogli il collo a seguirlo legato. E poi Paolo che corre il canile, ma tu eri già scappato. Ma sono sicuro che sei di ritorno da qualche strada lunga perduta qua intorno. Attento alle macchine che vanno veloci, al cielo la sera, all'acqua e agli incroci. Una piccola bestia di razza di cane, con i denti davanti, mangiati dalla fame. Bussava alla porta quando sentiva odore di pane. Quella piccola bestia di razza di cane.